Ritengo gli studiosi dei significati originali dei termini biblici colpevoli di non comunicare sempre delle verità ai non addetti ai lavori. Se si trattasse di cose di poco valore, potrebbero anche essere giustificati, ma nascondere verità che gettano luce sulla comprensione di ciò che Dio vuole comunicare a tutti, a mio avviso, è un grave errore. Una di queste verità non comunicate apertamente dagli studiosi è in relazione al termine padre che troviamo negli scritti del Nuovo Testamento. Se fosse un termine poco usato o una pax, cioè una parola usata solo una volta, poco importerebbe, ma dato che il termine padre nel Nuovo Testamento ricorre alcune centinaia di volte, non è possibile ignorarlo. Inoltre, meno, e questo è un motivo fondamentale, meno il termine padre è indicato da Gesù per indurre i credenti a rivolgersi a Dio in preghiera. Chi è il padre al quale dobbiamo rivolgerci? È la prima persona della Trinità o qualcosa di più? Per rispondere a queste domande prendiamo in prestito uno scritto di Cijourné dal titolo L'Église du Verbe Incarné. In merito alla Trinità egli scrive quanto segue. Se la Trinità risiede in se stessa e se le persone divine esistono pienamente una nell'altra, bisogna concludere che il nome di Padre, quando è dato alla prima delle persone divine per designarle in ciò che ha di proprio, non può essere pronunciata che dalla seconda. O, se è pronunciata da noi, non sarà se non per designare il rapporto fra la prima e la seconda persona. Se dunque è accordato a me, creatura, per qualche meraviglioso mistero di grazia e di potere, rivolgendomi verso Dio di pronunciare il nome di Padre, o rivolgendomi alla prima delle persone divine in ciò che ha di proprio per salutarla come il padre del figlio, come il padre che genera il figlio da tutta l'eternità. Oppure, rivolgendomi all'essere infinito che mi ha dato la vita naturale e soprannaturale, per salutarlo come mio padre che mi ha creato o generato nel tempo. Perciò, la parola padre non ha qua e là il medesimo senso. La prima volta designa una referenza reale dal padre al figlio, così reale che senza il figlio il padre cesserebbe di essere. La seconda volta designa una relazione che è certamente reale da me a Dio, ma che è di ragione da me a Dio perché essa può apparire e scomparire, senza che l'immutabilità divina ne sia toccata. Questa prima riflessione di Journé mette in evidenza una verità di per sé risaputa, e cioè che un termine non ha sempre lo stesso significato, ma questa verità applicata al termine padre ha la capacità di scuotere certi presupposti e pensieri comuni. Non possiamo nascondere che il termine padre per noi è rivolto principalmente meno e forse unicamente meno alla prima. Journé fa notare che di volta in volta occorre stare attenti quando leggiamo la parola padre nel Nuovo Testamento, perché il suo significato cambia secondo chi la pronuncia. Se il figlio di Dio a pronunciarlo, il termine esprime una relazione tra Cristo e la prima persona della Trinità, una relazione senza la quale non ci sarebbe una sussistenza a meno. Se invece siamo noi creature, con il termine padre esprimiamo una relazione che, se viene a mancare, il padre rimane immutabile. Ma Journé esprime qualcosa di molto più profondo. E anche la parola generare non ha il medesimo senso, là si oppone assolutamente a creare, qui significa precisamente creare. O Padre, che mi è dato di conoscere e di amare come generante senza crearlo da tutta l'eternità e necessariamente, un figlio a te consostanziale. O Padre, che mi è dato conoscere e amare come generante creandoli nel tempo e liberamente, dei figli la cui sostanza è infinitamente distante dalla tua. Nel primo caso la parola padre designa unicamente la prima persona divina nel suo rapporto necessario con la seconda. Se pronunciata da una creatura significa soltanto ciò che è eterno. Nel secondo caso la parola padre designa tutta la Trinità nel suo rapporto contingente con le creature. Vi si mescola un sapore creato. Questi due significati della parola padre sono essenzialmente differenti, tuttavia non sono equivoci. In questo discorso un poco articolato di Journé, per molti vi è qualcosa di veramente innovativo. Mentre nel primo brano Journé ha messo in evidenza che il termine padre ha due significati diversi, a seconda che sia pronunciato da Gesù o da una creatura, ora il teologo mette in evidenza che La parola Padre nel Nuovo Testamento significa anche tutta la Trinità. Così, il termine Padre, benché sia unico, ha due significati che sono essenzialmente differenti, pur non essendo equivoci. Questo significa che quando nel Nuovo Testamento leggiamo il termine Padre, dobbiamo di volta in volta scorgervi o la prima persona della Trinità, oppure la Trinità intera. Cosa non facile per chi non sa e non è abituato a fare delle differenze sulla parola Padre, ma l'esaminare di volta in volta a chi si riferisce il termine Padre è compito doveroso di un credente affinché possa comprendere rettamente il pensiero di Dio. Un'affermazione biblica che costituisce la mia confessione di fede e che alla luce di quello che abbiamo appena esaminato è maggiormente comprensibile è ciò che troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. In questa proposizione Giovanni si riferisce alla Trinità, con due termini diversi, Dio e Padre. Che nessuno abbia visto Dio è una verità che deve essere compresa, perché Dio, in quanto Yahweh, termine indicante il nome della divinità ebraica e che nelle nostre Bibbie abbiamo tradotto con Signore o Eterno, è stato visto e toccato. Basti pensare a Giacobbe che ha lottato con Dio e al quale l'Eterno ha messo il nome Israel, cioè colui che lotta con Dio, o ad Abramo, che ha visto Cristo prima che assumesse un corpo umano tramite Maria Vergine. Giovanni 8.5-7. Perciò quando leggiamo che nessuno ha visto Dio, dobbiamo intendere che nessuno ha visto la Trinità, e così è del termine Padre. Che il Figlio unigenito sia nel seno del Padre non significa che sussista solo nella prima persona della Trinità. Ma poiché il Figlio di Dio è partecipe della stessa natura del Padre e della persona dello Spirito Santo, nell'affermazione di Giovanni dobbiamo intendere che l'unigenito Figlio è nel seno della Trinità. Proprio perché l'unigenito Figlio sussiste nella Trinità, egli l'ha fatta conoscere. Verità questa che è in netto contrasto con chi sostiene che non sia possibile conoscere la Trinità. È evidente che nessuna creatura umana o celeste, può avere una conoscenza della Trinità che sia pari a quella del Figlio di Dio, per il rapporto di quest'ultimo con essa, ma sostenere che non si possa conoscere la Trinità a livello umano significa mancare di fede alle promesse di Dio. È vero che il rapporto di Cristo con il Padre e con la persona dello Spirito Santo è unico, ma poiché il Figlio di Dio ha assunto la natura umana, egli ha dato alla creatura umana la possibilità di avere comunione con tutta la Trinità tramite Cristo. Dobbiamo intendere l'incarnazione di Cristo non solo come il mezzo per poter riscattare l'umanità dalla perdizione eterna, ma anche come la capacità di dare alla creatura umana accesso alla comunione e comprensione della Trinità. Come dirà sempre Journe, ormai i teologi non potranno più accontentarsi di tacciare di folle esagerazione di iperbole senza contenuto dottrinale, di deviazione pseudomistica l'affermazione secondo la quale, per esempio, Dio, cioè la Trinità, può essere conosciuto e amato da noi con una conoscenza e un amore increati. Dopo aver spiegato che la parola Padre ha più significati, tra i quali il senso di Trinità, Journe lo ribatte in merito alla preghiera. Io posso, io devo, indirizzarmi alla prima persona a nome del Figlio, divenuto nostro fratello per l'incarnazione, per salutarlo come padre del Figlio increato e incarnato, ma non per salutarlo come padre di una creatura. La prima persona non genera, in senso proprio, se non colui che è nostro fratello incarnato. Essa è padre di uno solo fra tutti questi fratelli e non potrebbe generare delle creature. Quando, in quanto fratelli di Cristo, ci rivolgiamo verso Dio come nostro padre, ciò significa certamente dire che Dio è padre, tanto di Cristo quanto di noi, ma non significa dirlo allo stesso modo e sotto il medesimo rapporto. Egli è Padre di Cristo e Dio di Cristo, in quanto lo genera senza crearlo, diciamo in quanto è la prima persona della Trinità, e nostro Padre e nostro Dio, in quanto ci crea la vita della natura e della grazia senza generarci in senso stretto, diciamo in quanto è la Trinità intera. Questa riflessione, espressa con un linguaggio teologico e quindi non facile da assimilare subito, corregge un errore comune. Quando Gesù ordinò ai suoi discepoli di pregare non come i pagani, E quando diede un modello di preghiera, disse ai suoi discepoli di rivolgere la nostra invocazione, iniziando con le parole «Padre nostro che sei nei cieli», della nostra mente forgiata dalla cultura greca e occidentale. Subito pensiamo che Gesù volesse che i suoi discepoli si rivolgessero alla prima persona della Trinità, ma poiché la prima persona non genera in senso proprio e poiché l'opera della creazione è comune a tutte e tre le persone della Trinità, quando nella preghiera il credente si rivolge al Padre, deve pensare nella sua mente a tutta la Trinità e non solo il Padre di Cristo Gesù. Il Padre nostro che è nei cieli è dunque la Trinità. Cosa cambia gli effetti pratici avere questa opinione o un'altra? Poiché noi viviamo di immagini, sapere che nella preghiera ci stiamo rivolgendo a tutte e tre le persone ci aiuta prima di tutto ad acquisire, avere o mantenere una mente trinitaria. Inoltre, impariamo a dare alla parola Padre il giusto significato. Infine, il giusto concetto nei confronti del Dio Trino ci aiuta ogni istante a ricordare che mentre Cristo è figlio di Dio in quanto ha relazione con la persona del Padre e con la persona dello Spirito Santo, chi è diventato figlio di Dio per la fede in Cristo è figlio della Trinità tutta intera definita a volte con l'espressione Dio Padre. Giuda 1.1, 2 Giovanni 1.3, 2 Pietro 1.17, 1 Pietro 1.2, Tito 1.4, 2 Timoteo 1.2, 1 Timoteo 1.2, 2 Tessalonicesi 1.2. Una verità questa che merita di catturare la nostra mente perché anche se la parola Trinità è stata coniata nel IV secolo, essa è presente in tutta la parola di Dio. Dove sono i detrattori della fede trinitaria cristiana? Più significati del termine Padre. Genesi 2.24 colui che lo ha generato. Genesi 4.2021 colui dal quale si discende come per esempio. Abramo nostro padre Luca 1.73, Giovanni 8.3953, Romani 4.1, Davide nostro padre Marco 11.10, Giacobbe nostro padre Giovanni 4.12, Isacco nostro padre Romani 9.10, Padre nostro, Matteo 6, Romani 1.7, Galati 1.4, Filippesi 4.20, Colossesi 1.2, 3. Padre di Cristo. Efesini 1.3, 3.14. 1 Pietro 1.3. Romani 15.6. 1 Pietro 1.17. Gesù viene chiamato Padre perché è solo Lui che giudica. Giovanni 14.6. Gesù si autodefinisce Padre, brano nel quale si trovano due significati. Galati 1.15. Il Padre che risuscita era